cioccolato mi sto mangiando. Un cioccolato mi sto mangiando. Già che sono già una settimana. Già, questo me lo fa passare. E beh, Giovanni. Buonasera, allora. Non avevo ben noi, no. Deve stare i servizi, a me non mi tocca drudda. Sì, figurati a me. Vai a campo di Mattesi, vai. Già lo so, già lo so, bisogna campare purtroppo. Se vuoi andare avanti devi campare, se no ciao. Mia, Bacchisio, buonasera Bacchisio, anche a te. Buonasera Luca, buonasera Gian Maria. E sto rientrando in garage, capito? Buonasera Bacchi. Ah, il garage sì. Beh, ti sento ugualmente, Bacchi. Nonostante sei in garage, ti sento benissimo. E dentro solo, no? Dentro il garage. Ho posteggiato, adesso se andiamo verso casa. Bacchi, io domani mattina vado a vedere un'antenna, dai. Al padre di un mio amico. Nel caso, vai, ti chiamo. Così passo a portarti la roba di... come si chiama? Di Marino, con le antenne. Così passa a prendermi il monitor. Il monitor è qua, il monitor è qua. Perché adesso ci metterò, fai una ventina di minuti, dai. Se no sei passato anche adesso, ma mi devo vestire ancora. Se vuoi passare, ti aspetto. Se vuoi passare, ti aspetto. E così ti porti via tutto. Vabbè, dai, è il tempo di vestirmi, dai. Tanto devo uscire, devo scendere da Bricoman anche. Ci vediamo, fai, sono le 6:10. Fai un quarto, 6:15 così. Benissimo, dai, sono qua, ti aspetto qua. C'è uno? Signor Tore, sì. Tutti morti, Bacchi, ciao. Ciao, grazie, buonasera, ci sono, tutti morti, non c'è nessuno, sono tutti dormiti. Io, ma pesi. E ho chiamato il casino, attendo la campagna, nessuno mi ha riposo, tutto tace. Tutti morti, mi sto facendo vedere su internet, voce di prosciutto, fregature, sta aprendo tutta la coscia del prosciutto e all'interno sono tutti pezzi avanzati. Di maiale, guarda che schifo, pizza rosso questo, per carità, mi ha schifo, tutta pesce è dentro, sembra un prosciutto intero, no, invece all'interno sono tutti pezzi di carne, che schifo. Avanti hanno messo all'interno, fuori si vede il prosciutto, all'interno avanti, la roba buona si è rimagnata, e te ne posso la mondezza. Mia, beh, un pezzo di così, gavegna, gavegna e tutto, abbai, che schifo, pezzo di largo, fuci proprio la mondezza del maiale, abbai, e pensa tu la dieta che non usassi. Che non dai la grucuccia e da affetti, per carità, ogni fregatura, eh? Quello è buono, quello è buono, vermi, muffa e tutto. Ha visto stamattina, l'ho fatto in televisione, o ieri sera l'ho visto, la gorgonzola scaduta da 3 anni, la privano, le tagliavano il pezzo molle e la dovevano a confezionare. Io già l'ho visto. Tutto scarti della lavorazione sono questi. Hanno formato il cosciotto di prosciutto. Chi c'è di prosciutto crudo? Chi sa la gente? Ci sono imbacchenni. Puttana a destra e a sinistra. Le vedi fregature. Miserabili già. E chi ci sono continenti? Chi l'hanno sgamati? Chi si due giovani? Ma lì c'è roba buona, questi sono di marca, lì ci sono dei prosciutti di marca, grazie. E dunque uno lo fa, lo compra a occhi chiusi a chi è di marca, però la marca se lo vola, Trento non venne. Per carità, che schifo, tutto di carne di maiale, pulita, vendita, pucci. una buccaria, lì ci sono da ricciasso. Ladri, per carità. Vieni. Capito? Dopo vieni, graziare, e ci pigliano di là, e dopo ci si fa di male e poi ci batte. E allora, proprio tutti avanti, burbezzi, pezzi niente, bighi di vegani, pezzi di banzetta di laggiù, pucci, tutta roba buccinosa. Che miserabile, E dai chi mi ci fa di là a me? A chi si imbacca nella niente, è uno che non ne sa, e tu rubili, bello tranquillo, lo affetti, e trenta è tutto buzzi luce. A te le immagini, per carità. Siamo in Italia, grazie, bisogna avere la pazienza. Io penso in altre nazioni non succede queste cose così. Solo in Italia che ce ne fottimmo, lasciamo andare, vai che cavallo mio campa. Ladri, chi sa furare di dinà, e affamare la gente, chi sa bucare a di vazimare, e tu vado tranquillo, ti vai a rubare con un brutto buzzinuccio. Miserabile, per carità. È più buono, perché prosciutto confermi. Contorno. E ingrassa dove? Allora mi ha giubilato 30 carciofi, 15 euro. Mi ne ha regalato vita a casa. Fatti poco fa la campagna sua, questa ragazza. Fittino. Va bene, già grazie. Andare. Ma è Torre Squallido, non si è sentito stasera, non l'hai sentito per nulla, grazie. No, da quando sei qui vado con Giorni Maria, ci hanno abbandonato. E i confetti mangiate, dirai, non ti hanno dato confitturi, no? No, hanno fatto tutta la cua, non hanno fatto sapere da nessuno, nozze segrete. Ah, ecco. Sempre cosa le fate segreto, poi i paparazzi, non c'è che venire i paparazzi e le fate di bigliabare, compreso sai? Tutto in segreto allora, proprio. Ma domani lo sapremo, domani che è sabato, che hanno più tempo, se che confitture rimaniamo o no. E da me ci sono qui vati 30 di ghetta, no di sabato, di domenica, sennò da di troppo luci, no. Invece 30 di ghetta la gente travaglia. E tutti quanti non vi buoni ne manca andare, dunque è arrivata una cosa veloce, tutta sotto tappeto. tutta roba guarda. Allora io non riducava a prenotare un ristorante, l'agriturismo, gli inviti, tutta questa roba di magna, ma buffonici, no, hanno fatto tutta la cua. Sì, ma Tore, con Rugani è andato. No, a Rugani l'ha lagato, li ha rubato, fuori della chiesa. A controllare se aveva il cacchio duro, a cudire un mosso. Ma non pensavo che avesse preso con Rugani e fatto da destra, capito? Rugani è fatto da destra. No, due chihuahua si hanno arrecato che non si muore in bucciacca e non li vede nessuno. Fa fare la testa. Vediamo se Gio Maria è accontente, non si è dato la ripulsa. Gio Maria. No, non sa c'è la Gio Maria, no. Gio Maria mi ha parlato in televisione. Ma veramente rimane, mi è falso di aver sentito che non sta di alza, che era accusi, ha inteso, e da poi non so cosa va via. Ieri l'ho sentito, non so che l'era di senatore. No, ma ha inteso, era rientrato in garage io, e poi la vedete con Luca, e si è mangiato di cioccolata. A farli passare il gusto a chi si era così. Allora mangiando cioccolata. No, non li ho sentiti per niente, ma me l'ho acceso poco fa, mi. A chi era di tenagisa, mezz'ora lo vacone mi ha fatto il saggio, ma mi congelecci. A chi non sappia l'urugo unita, in cabezzina. Dopo alla fine il saggio fatto per la mia moglie, la vedi. Ed era vicino al campo sportivo e noi, a zitterna a me, roba la macchina. Roba di dare dei consegni anche se avvicina. Mi buono un mese a fare i consegni. Sì, ma con Luca con la piscina era? Era un piscino impara la piscina. No, abitano in campagna, in quella zona della Buttibuzzi. Ah, campagnola, eh. Non ho capito. Non sono la Buttibuzzi, era il vicino. Non è passato in garage stasera a pigliarsi la roba di Adalì Marino e si è pigliata. Oh, non lo so a chi non la gente si bannita. E infatti mi ha detto no, a uscire esco alle 4 perché c'aveva altre consegne da fare a Sant'Osola, lì su vicino alla Coppa, alla Cona, lì vicino. Mi ha consegnato un meme a cassetti in tre di cazzo qua. Chi si avvicina un rubicino, era in macchina, si è messa su internet, l'hanno chiamata e lì li ha portati, come ho fatto io, va. Sì, amici, si è accelato dove? Dove avanti? Dove? Ma ha sognato di là, se non si intendi, Tore viene avanti. Allora, signoratore, un attimo, il sopra modulazione, sopra di te, affamitato, grazie. Allora gli faccio i ditti. Che è il vampiro, avanti. Ha detto cosa e non si comprende cosa è. Mio, ho affuso, ho la fofabità. Sole, si è fuggito. Aspetta un attimo. Bacchi. Sì, è solo qua, grazie a vai. Vediamo se qualcuno si affaccia. Sole, ci sei, parita sì. Tore, si è mangiato lo zurico. Tore, aiuto, entrando stai. Archimede. Non si sa se è finita l'antenna, se è a metà o ha voluto lampato tutto. Avvedumi. Avrà lampato tutto, oppure se mantenendo un capo. Se si mantenesse un capo non fa tenuta. Bisogna avere la sala di lavabo. Ma senti, è quello primo. Ui, così non ha gara ad entrare. Non c'è nessuno, no. Luca era andato a fare delle compere e dunque era impegnato. Che dato lo so che è indefinito, ma non c'è nessuno. Marino non assente a chiedere impegnato. Tutti impegnati sono grazie. Vabbè, va. E cosa vuoi fare, mi? Ma, sai, e sapete, e sapete, e beh, non c'è. Mario ha mandato un video, un po' spinto là. Ehi, ti ha mandato? Marino, a te non te lo posso mandare, no, non ce l'ho il tuo coso, se no te l'avrei mandato. Sì, Marino, sì. Che me lo posso dare a Marino il numero tuo? Domani quando lo vengo gli dico dammi il numero di Graziano. Ah, va a mandare Luca Flipper, è un amico mio. Che sapete? Mandati. Allora ci manda da Luca Flipper. Se la baita da poi atteggiamo. Mi ha detto me ne ha mandato un altro, e sapete chi? Chi c'è per ritrovarci con un rimorchio, un camion frigo, carico di mezzi bocche mi pare. Boh, va vediamo cosa ne c'ha pizzo. Marino l'ha mandato sempre, no? Che hai pizza? Sei frappinato! Lo container, carico dei carri, ma pieno! se cucato tutto il rimorchio, a tre se sei barrato, tutto in terra ne farà. Beh, se mi sono lupi, via, manco mangiano i canotti, se mi sono lupi a mangiano. No, che è dentro un cortile, e la torrenna a retromarcia, un ramblì per caricare. Già c'è bisogno che le frigorifero, e chi li comprisce. Sei imbucciato invece, e andò bene. Tanto mai questo coso, questo dove squalido non si intende capire. Voglio sapere informazioni, non so la fa. Chi sei il tuo di prima, chi tu gli ami piace di più, Quante video, in te. Ah, c'è una becula e la chissà, un crabbitto. Marino, è venuto, no? È impegnato a il telefonino. Nulla, non attendi. E già vi la stessa, è a cosciente. Secondo te, uno è sempre a cosciente, si pensa a crescere l'elefante. Magari è impegnato per le cose. Tore si sarà mattanendo un capo con un santennino. Non sai che Tore è fatto così, che puntiglia pensamente arrivi a Rosolio. Ma da dove ci avevi già fatto? Fatta la roba, era, voglia solo tarato. Voglia un poco di pazienza per tagliare, arrivi a dunque. Era quasi fatto. Se non sapessi una tratta leva. Comunque belli quei carciofi che mi ha portato. Tennari gioco. E poi li ha tagliati stasera. Si vede il primo taglio. Tennera. E da in casona mira la coltivazione, che grazia. E mi sembra all'interno dove c'è la ferrovia del treno, dove c'è. E una parente di mia moglie lì c'è la campagna. Ho capito. Dopo la ferrovia, guarda, è staccata la ferrovia. E io lì c'è una parente di mia moglie, una zia, ci andavo spesso lì. Anche la, una cugina di mia moglie c'aveva la campagna. Dopo il passaggio a livello c'è andato spesso lì lo stesso. Solo poi è rimasta sola, vedova. E in opera vazia laggiù la chiera a piedi. Se la venduta ce n'è andata a Sassari. Si è pigliato una gazzetta, un appartamento a Rugoso. Fai da Baeda minore e abita al Corso adesso. E la campagna l'ha venduta. Ed è la vita mia campagna. Questa di Chibi di Santucci l'ha venduto là, c'è una via. Zia Yolanda, no? Si l'ha pigliata... Chi c'era la zia di mia moglie? Si l'ha pigliata un figliolo con la nulla e vivono loro. C'era la villa, ci ho lavorato anche io a fargli quella villa lì. No, gli ho fatto travagli in questa villa. L'hanno divisa, no, e uno si è preso la casa con il pezzo del terreno e l'altro si è preso il terreno più grande, capito, a chiedere lì, due fratelli, la femmina è muscia, l'altra, erano in tre, due maschi e una femmina, però la femmina è morta, dunque hanno diviso in due, non la madre. Uno si è pigliato più terreno e l'altro si manco terreno con la casa. Boh, e chi io li conosci a tutti? Non c'è presente la cosa, lo chiosco, quindi la verdura. E Casiani, i nostri prima Casiani. Non lo so, non ci so così. Io ci andavo spesso anche da ragazzo lì, quando era alle medie. Tutte quelle zone lì, anche dove c'è il castello. Oh, lì ci andavo spesso lo stesso. Le conosco tutte quelle zone lì. Io scendevo anche in campagna da dove c'è il binario del treno. Nisci all'entrata di giusto, due chilometri prima. Un vero monte che tira il treno, Matteo. Dici, adesso chi vede l'arrivo da campagna di Vapo? Che cosa vi dico, sai, non è che lo fanno un uomo strano, chissà, c'è un uomo. Non hai tutta la niente, così è. Ma mi pare sì. Ma che c'è una chi parava campagna da Babbo all'entrata di sotto, 2 chilometri. E non me la metto come si chiamava in questa zona. Ah, passavo molte volte a piedi, mi passavo da lì. Invece passavo da San Camillo, capito? A troncatura quasi a prima da lì. Arrivi alla campagna di Babbo, che era 2 chilometri prima arrivi a Sorso. In zona di Sorso era chissà. E che era la zona buona. Zona di Radri. Ehi, questa campagna di Babbo si dà una bestia allora 7-8 voti. Alla fine Babbo la laga da bestia, tanto non ve la nuda di furano, l'aveva legato tutto furato. Oh. Via, li controllava, li si vede la roba, se ne andava a ziare. E chi viene, non c'è la faccenda. E chi viene di nascere sulla via, lo prendete per compare, la campagna con la grassa. E che cosa veniva solo in corso? In Ischiva che lavorava a Milano. Ogni volta che veniva, come ci sapeva che era arrivato, la prima a casa. E se andava a mare, lo tentava di aprire la Ianna. E non direttamente, no, ma era piccolo per sbarravami. C'è una volta Babbo in campagna, non è sradicato, una Ianna blindata, grossa, che aveva recuperato la Fiat, gliel'aveva lodata e lui l'ha piazzata in campagna, tutta di ferro, ma grossa. Beh, non sai cosa hanno fatto, eh? Hanno imbicchiettato tutti in giro a Ruderaio e hanno cotto in terra a Ruderaio con la Ianna fa entrare. Poi un'altra volta era amico qua di Trento ed è di là di fuori a prendersi la Ianna. Ci ha abitato Papo, passami i fucili. Quando invece la Ianna hanno cominciato a correre in 4 o 5 erano. E papà mi è parato in aria. E intanto con noi dentro va fuori a vedere le macchine, no, tre. Ottimo minuto. E chi è il coso? Allora, un cognato di mio fratello, in canica. L'abbiamo sempre rubato. Ogni poco tempo l'abbiamo rubato, si portavano le cose, le altre macchinette, i ricori, tutto quanto. Allora, metà di figlia è fatta una metà grata in ferro, ma grossa, metà pesante. E ce l'ha piazzata. Oh, dopo io di un mesetto che vira, anni qui. Sei sparito! E perché questo qui ha tempo. Ci fa vedere più di un solito si chiuda. Che senti? A coso a canica, allo cognato di mio fratello. Ne ha becca la Ianna, ne hanno cavato in tre, l'ha fatta in ferro. Ehi, come hanno fatto in campagna da Babbo? Li hanno smantellata, l'hanno cavata tutta in giro, hanno visto unire le zampe, no? L'hanno martellata e l'hanno bucato, l'hanno intriga, con un telaio. E chi che ha fatto la moto di travaglio? L'hanno cavato già nel tiraggio e ve l'hanno appoggiata a farci fuori della Ianna. Dice, ti piace di andare a piazzare? E fa di petto la voce, non ve l'hanno dato incendiato. I letti, il letto a castello, la credenza, la banca, il ricadere, tutto al vostro buco. Oh, che saputa. E prima di chi si viene avvelenato, l'uvino che viene a 30 l'ulacco, con la medicina dei risori. Non lo vino, oia. Allora viene avvelenato, Rani. Hai dove ho fatto qui? Babbo l'ha portato a analizzare e l'hanno detto che avevano cotto la medicina dei risori. Allora dalla volta mi ha fatto cursare tutto l'acqua che era all'interno della casa, no? È grande pure era, canta una gamba la vita. E mi ha fatto smantellare tutta la vigna, mi ha fatto lasciare qualche pianta e boh, e non avevamo fatto più. Non faceva fare niente. E non si può fidare più di nulla, no? E se la si rovino, non sei mai tranquillo, se ti rampano in roba non lo prendo. Oppure leva bambino, una qualsiasi cosa. Bisogna portarsi sempre appresso la cosa. Capirai. E se aveva qui un sicchio a Torre Squallido, Torre Squallido. Ma la sua che non risponde. Vabbè, ho visto io. Ah, ma lo pensi con la penna? Già di pochi baroni, si pare che entri. Papà vedà, lo devi buzzichignare, attore. Che è a tempo, fa vedà, non hai compreso, è a tempo. Pare che ci fa vedà, lo devi pagare, papà vedà. Sì, hai sentito mia vita. Allora vediamo un poco se mi rispondi. Leggi il nome e non ti rispondi. Già è un segno. Non rispondi. Ehi, Ato, e beh. Ti tendo basso basso, dove sei? Ho capito. Mi invia a Roma, siete troppi, che stai andando con l'antennino? Vediamolo domani, Tom. Io tanto a mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e mezzo sono in garage. Che vuol dire la bobina devi aprire. Vuol dire che c'è qualche filo di saldato nella bobina. E tocca che non tocca. Ma chi va bene? A domani, chiudo. Ciao. Aspetta, Tom. E ciao, grazie, buona serata. Grazie della chiacchierata. A domani. Stammi bene, saluta la signora. Ciao Graziano. Ti saluto anche tu, Remi, che è in macchina. Ricambia le saluti, ok. Ciao, ciao. Ciao, ciao Graziano, ciao.